Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, le cure, provocazioni, musica. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, le cure, provocazioni, musica. Un saluto circolare. Allora, no, sto scherzando. Radiazione, diretta d'azione, venerdì 10 ottobre 2014. Diretta d'azione che, come tutti i venerdì, in cui, come in tutti i venerdì, si parlerà solo di controinformazione, qualche provocazione, ovviamente, qualche riflessione, ovviamente, e anche la musica, ovviamente. Allora, ricordiamo subito gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@distici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail, tutto il materiale che si vuole far apparire sul sito di Radiazione. Lo ricordo che ci sono delle censure fatte apposta, quindi chi vuole mandare materiale è bene che si vada a leggere l'articolo, cose che non verranno mai pubblicate su Radiazione, così evitiamo le mail. Ma perché non l'hai pubblicato? Perché non l'hai fatto? Perché ci sono i perché. Quindi l'indirizzo è radiazione@dcc.org, lo ricordo. Mandate anche qualche consiglio per i libri che leggiamo il lunedì con Marcello. Qui stiamo leggendo L'amante dell'orsa Nessuno ci salva di Sergio Spiaseschi. L'amante dell'orsa maggiore l'abbiamo letto l'anno scorso, ci è così tanto piaciuto l'autore che abbiamo deciso di leggere anche questo secondo libro. Faccio il paraculo, li conoscevo a memoria, sono i miei due libri preferiti e sono stati scelti apposta, visto che nessuno di quelli che ascolta le letture di Su Radiazione ci manda un consiglio, le letture le scegliamo noi, quindi stavolta l'ho scelto io, la prossima se non scegliete voi sceglierà Marcello. Allora, ricordo il sito di Radiazione, radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete ascoltarvi le dirette d'azione attraverso i podcast. Ci sono tutti i podcast da 2 anni a questa parte, quindi vi potete fare o 2 ovaie così o 2 palle così, decidete voi. Le trovate nella categoria ascolta le dirette d'azione, oppure altrimenti attraverso la pagina dei download potete scaricarvi un bel po' di roba che mettono a disposizione i compagni che non mettono i prezzi alle idee, e là ci trovate libri, ci trovate opuscoli, ci trovate musica, ci trovate volantini, manifesti, un po' di tutto il materiale controinformativo, sia musicale, tutto è controinformazione. Se è fatto bene, se anche un brano, anche un CD di musica, se il testo ne vale la pena, è controinformazione. Allora, questo era per quanto riguarda il sito di Radiazione. Invece la radio trasmette sul server anarchia.net, messo a disposizione sia per la radio, per le dirette radio, sia per il sito di Radiazione, che ricordo è anche in lingua croata. Trovate il banner in home page del sito in italiano per entrare nel sito croato. Dicevo, tutto sul server messo a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che ringraziamo e salutiamo sempre per tutto l'aiuto che ha dato a Radiazione e continua a dare ogni tanto periodicamente, siccome qua ci sono le capre in informatica. Fortunatamente abbiamo trovato un compagno che ci dà una mano. Allora, ora ho detto tutti gli indirizzi utili, ho detto le mie cazzate, tanto per iniziare iniziamo ad ascoltarci un brano. Volevo premettere, oggi la maggior parte della diretta sarà improntata sul Messico, poi si spera che prima o poi si riesca a fare anche un'intervista con i compagni messicani, ci stiamo lavorando. Dicevo, si parlerà per lo più del Messico, sullo sciopero della fame, non vi dico nulla, ci sarà anche altra controinformazione che arriva da altri paesi, ma diciamo che la maggior parte del tempo se lo prenderà, lo impiegheremo per parlare di Messico. Allora, questi invece, il brano che ci andiamo ad ascoltare non sono messicani, sono brasiliani. Il gruppo si chiama Ação Libertária e il brano è Fio da Periferia. We'll be right back. fare un passo là, non si impara a soffrire. Tu che resta in casa? Ah, è un view, invece che tu ci vuoi, vamo a cercare. Preferenza! Ma quello è una chance, non so te un opisso, te un king cara. Ma tu prendi tu là! Figlio da periferia, non fosci da lontano, cara, la puttana, ma stavi in giusto. Chi ha se può la terra darsi, strofè, può fantaggi, non ha da che rischi da ben provare. Non subesci mi mio coglienzi, metto mia vita, mia cresta, facci da rumba. Voglio un segreto, un cigano, un cigunda, ancora è mia fetta, da due età. C'è un gimbara, non sappi più che gis. Prego un bambà, capacando un cifadon. Con la retorica che ho lì, fuume il show. Io sono un nariz, non vedo amici, se un chi è stato non puoi solo essere falà. Un chi passei, essa giacchettina. C'è un gimbara, c'è feita, posso a me. Di nada serve, somente chi viveu pode falar. Com propriedade, da minha quebrada. Sou filho de lá, então não enche. Senão cê vai ficar sem os seus dentes. Eh beh, si è partiti belli sparati, vai, vai, subito così, facciamoci del male subito con questo brano di Yasuo Libertaria, figlio da periferia. Ora, come dicevo, oggi la controformazione si impronterà molto sul Messico, perché lo ricordo che ci sono i quattro compagni in sciopero della fame dal 4 ottobre, se ricordo bene. Sono Carlos, Mario Gonzalez, c'è Fernando Barcenas e c'è Abraham. Quindi i quattro compagni in sciopero della fame contro il carcere, per portare una loro forma di lotta contro il carcere. Non c'è nessun motivo, come hanno spiegato anche loro nel loro testo, che chiamava lo sciopero della fame, ma lo fanno prettamente perché loro sono contro il carcere. Ci sono state già un po' di iniziative in solidarietà con i compagni, una qualche azione è una che arriva da un carcere dentro, proprio dal Messico, ed è non si sa, non è fatta, diciamo che è apparsa nel carcere dove ci sono Amalie e Fallon, le due compagne canadesi che sono state arrestate insieme a Carlos Lopez il 5 gennaio per un attacco alla Nissan. Penso che ne abbiamo parlato così tanto che oramai sapete a memoria di cosa sono accusati i compagni. Quindi dicevo, uno scritto che è in solidarietà con i compagni in sciopero della fame da parte di Amalie e Fallon. Leggiamoci lo scritto. Venerdì sera un'enorme scritta è comparsa sul muro della sala del Rancho C della prigione di Santa Marta, dove siamo sequestrate. La scritta esprime la nostra solidarietà ai compagni anarchici Abraham, Fernando, Mario e Carlos in sciopero della fame. Da venerdì le nostre compagne di prigionia non si fermano a commentare il lavoro visibile. È cambiato molto l'atteggiamento peace and love abituale nei corridoi della prigione. C'è una voglia di confrontarsi in rottura con la passività di tutti i giorni. L'obiettivo è stato raggiunto. È un modo per spingere la discussione e creare spazi di riflessione all'interno del carcere. È uno dei modi che abbiamo qui per attaccare la pace sociale e la pacificazione. Dal nostro punto di vista ci sono molti modi per lottare e prendere posizione per negare l'autorità. L'intenzione non è quella di rivendicare l'innocenza di qualcuno, ma piuttosto generare contesti di conflitto e di rottura con l'ordine stabilito. Sappiamo anche che l'iniziativa dei compagni sciopero della fame è stata presentata nel contesto del 2 ottobre dai mass media, che sappiamo non essere l'intenzione dei compagni. Invece i compagni hanno detto che rientra anche nel contesto del 2 ottobre, però molto più allargato, che non lo so cosa hanno detto i media. E quindi ci rifiutiamo di usare i canali di comunicazione massivi o meno per esporre un discorso di innocenza. In solidarietà con i compagni sciopero della fame, né colpevoli né innocenti, prigione femminile di Santa Marta, ecco, Amelie Fallon. E questo era lo scritto delle due compagne che, lo ricordo ancora una volta, sono state arrestate insieme a Carlos Chivo Lopez, detenuto e in sciopero della fame in questi giorni. Sul sito di Radiazione potete anche, chi vuole, può vedere anche le scritte che sono state fatte nella sala dove del Rancho C della prigione di Santa Marta. Ora ci ascoltiamo un brano, Operation Ivy. Oggi si andrà molto sul punk, molto sul punk. Healthy Body, e poi dopo si torna qui e ancora Controinformazione. Dancing, come on up and feel free to dance, because we're a dance band, you know. This song's called Healthy Body, Sick Mind. Ho! Make your consciousness blind. You can tease it up and look yourself from far away. Think you've done this, that's why I think you are insane. Hey, everybody, sick mind. Now it's just a matter of time. Operation Ivy con il brano If Body Body. Ora si ritorna qui con la controinformazione. Abbiamo detto puntata, cioè trasmissione sul Messico, perché andremo a leggere anche l'intervista a Carlos Lopez, il compagno che è in, che fu arrestato con Amelie Fallon, di cui abbiamo letto il primo testo di controinformazione per oggi, che ha fatto, che è in sciopero della fame. Però prima di arrivare là cerchiamo anche un attimo di cambiare pure zona, prima di soffermarci per più tempo sull'intervista di Carlos, andando in Grecia, dove ci sono degli aggiornamenti e un testo sugli arresti di due compagni. Uno è il primo che leggiamo, è un resoconto fatto da alcuni solidali che dicono: oggi 6 ottobre gli ultimi due dei cinque imputati che erano stati arrestati durante un raid coordinato dall'agenzia antiterrorismo in Atene a Salonicco sono stati portati a carcere di Korydallos e seminterrato dell'ala F. I due compagni sono Panagiotis Mikalakoglu e MB, non c'è né nome né cognome, c'è solo le iniziali. I due compagni sono accusati di partecipazione a un'organizzazione terroristica o penale, né sono legati a eventuali furti, come l'agenzia antiterrorismo ha dichiarato alla stampa durante i primi giorni. Le accuse sono possesso di armi aggravato e possesso di esplosivi, che sono granate. Panagiotis ha rivendicato la responsabilità per le armi trovate nella sua casa, mentre MB non ha nulla a che vedere con il caso. Seguiranno i comunicati scritti dei due compagni, noi siamo con loro, con furia e coscienza solidali. Questo era il testo dei solidali. Invece c'è anche il testo dei due compagni arrestati in Grecia, che andiamo a leggere subito. Saluti ai compagni che attaccano con forza e fermezza e inaspriscono il conflitto della guerra insurrezionale. Mercoledì 1 ottobre 2014 i cani dell'antiterrorismo hanno suonato il campanello di casa mia, dove mi trovavo con il compagno MB. Dopo mezz'ora ho capito che non c'era modo di sfuggire o la possibilità di affrontarli. Ho aperto la porta e questo li ha portato ad irrompere in casa. Hanno subito messo le manette a MB e lo hanno portato al loro quartiere generale, mentre ammanettavano me in casa. Durante la loro perquisizione hanno trovato armi che appartengono a me e con cui il compagno MB non ha nulla a che fare. Poi mi hanno trasferito al loro quartiere generale. Sono stato interrogato per circa 15 ore cercando di ottenere informazioni sulle armi e le azioni degli altri compagni. Hanno fallito e mi hanno spostato in una cella senza poter comunicare con MB, che era stato rinchiuso nella cella accanto alla mia. Dopo 5 giorni di detenzione ci hanno portato davanti al giudice penale e ci hanno trasferito al piano seminterrato della sezione F del carcere di Korydallos in detenzione preventiva. Essi non ci spaventano, ci fanno solo arrabbiare. La solidarietà e la forza a tutti i prigionieri politici impenitenti, anarchici fieri e penitenti, Panagiotis Mikalakoglu, Panagiotis e MB. La facciamo prima. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Spare Beards con il brano Try Again, e poi dopo si ritorna qui e ancora controinformazione. Down. Spambeds, Try Again, Try Again. Ora, mi dite, tu sarai fuori di testa. Anche se fino a questo è tutto normale, tutto fila liscio, finché mi viene detto che sono fuori di testa, è la normalità. Abbiamo detto si parlerà più del Messico, invece stiamo parlando di tante altre cose. Infatti io vorrei portare a termine alcuni discorsi sulla controinformazione in altre parti, e poi dopo focalizzarci sul testo di Carlos, sull'intervista a Carlos. Quindi vorrei chiudere un attimo la parentesi della Grecia, per esempio, con uno scritto di alcuni detenuti nel carcere di Korydallos in solidarietà con Antonis Stabulos. Io non ce la farò mai a leggere un nome greco. Mi dispiace per i compagni greci, però che cazzo ci devo, non ce la faccio, mi si attacca la lingua. L'anarchico Antonis Stabulos ha iniziato uno sciopero della fame e della sete, perché nonostante c'era un ordine del tribunale che avrebbe dovuto scontare la sua custodia cautelare nel carcere di Korydallos, è stato illegalmente trasferito al carcere di Larissa. Questa tattica, utilizzata dal Ministero della Giustizia, non è un evento isolato, fa parte di una strategia globale vendicativa contro quei detenuti che sono considerati pericolosi o sono accusati di essere membri di organizzazioni armate. È il primo lampo delle carceri di tipo C, che impone l'isolamento dalla famiglia del prigioniero. Ci solleviamo accanto all'anarchico Antonis Stabulos e avvertiamo il Ministero che la morte di un prigioniero causato da uno sciopero della fame o della sete avrà conseguenze inaspettate. Che ognuno si prenda le proprie responsabilità, forse allo scioperante della fame e della sete Antonis Stabulos. Iniziativa dei prigionieri da un'ala del carcere di Korydallos. E questa era per quanto riguarda, chiudiamo così per oggi, la controinformazione proveniente dalla Grecia. Ricordo che il compagno di cui si è parlato ora, lo devo dire, Antonis Stabulos, ora sto imparando, è stato arrestato con l'accusa, a meno da quanto ho sentito dire, di appartenenza a lotta rivoluzionaria. Io ne ho parlato già tanto, forse, di lotta rivoluzionaria, che non è più quella che a cui io fino a poco tempo fa pubblicavo materiali, testi, e davo anche una solidarietà come compagni, ovviamente la solidarietà a tutti i detenuti, ma non ritengo più dei compagni persone che appartengono alla lotta rivoluzionaria, per discorsi come quelli che sono avvenuti negli ultimi due scritti, uno di Polarupa, uno di Nikos Maziotis. Il compagno è accusato di lotta rivoluzionaria, fin quando non rivendicherà la sua appartenenza io continuerò a mettere gli aggiornamenti sul suo arresto e sulla sua condizione giudiziaria, condizione fisica e tutto quello di cui si parla di tutti i compagni detenuti affini. Se poi rivendicherà l'appartenenza alla lotta rivoluzionaria, io devo prendere atto di questa cosa e non pubblicherò più niente rispetto a questo. Questo giusto per capire perché ora vedete e forse non lo vedrete più sul sito di Radiazione. Non dovrei nemmeno dirlo e ripeterlo, però le cose stanno così, almeno da parte mia. Io ho preso una via, ho preso un percorso, sto cercando di dare un'impronta definitiva a Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono di AE, il brano è Hated, e poi dopo si torna qui e si viene in Italia con una storia del cazzo. L'abbiamo presa dal sito di informazione, la leggeremo. DI, brano Edit, e poi Catania. Running. and your thoughts I now control, only to haunt you and break away from your hell. As I ponder in the eyes of a fool, your deception only to profit you. Someday I think I just may ruin your life, forever damned on the edge of a knife. Times now I know being cool will sometimes take its toll. Insane, ripped off, losing my mind, only to be crushed by deceptive lies. Your deceptive lies. As I ponder in the eyes of a fool, realizing this nightmare's true. Deep in your thoughts I now control, only to haunt you and break away from your living hell. Deception to profit you. Someday I just may ruin your life, forever damned on the edge of my knife. So now you put me in a cage. Someday I'm just gonna get away. It's like falling in a bottomless pit, another selfish game of hit and miss. Eyes open, now I can see just what's happening to me. Sometimes I'm my own worst enemy, but if looks can kill you'd be dead, you see. Still I ponder now that you're the fools. Tables turned, the nightmare's yours. All the strain rearranged, having to deal with yourself, now the hell is yours. As I ponder in the eyes of a fool, realizing this nightmare's true. Your thoughts I now control, only to haunt you and break away from your hell. E questi erano DI, come abbiamo detto, il brano Hated, e dicevamo anche di una storia del cazzo, una storia di una di delle tante storie del cazzo che avvengono in Italia, in particolar modo dove il carabiniere è l'uomo più coglione che c'è. Quando indosco la divisa è un leone, ma nella vita sai che uomo è? Un uomo di merda, come dice il coro. Ma loro sono uomini di merda nella divisa, nella vita, sono sempre uomini di merda. E allora che cosa è successo? Cosa è successo? Perché non è la prima volta che capita che ci vanno di sotto, che uno prende il suo proprio percorso, uno piglia il proprio percorso, decide il proprio percorso, e ste merde che fanno? Ti cercano di fare terra bruciata, iniziando ad andare dagli amici, andando dai fratelli, dalle sorelle, oppure dai genitori. È capitato in passato molte volte, è capitato pure a sottoscritto, quindi sento la vicinanza al compagno di Catania che è stato colpito in questo modo. Leggiamo. Una domenica di ordinaria repressione. Crediamo sia opportuno raccontare ancora una volta di quanto siano carogne le guardie. Turbando la quiete di una tranquilla domenica mattina, due volanti si fermano davanti all'abitazione dei genitori di un compagno e due poliziotti suonano alla porta. Il pretesto è una notifica a carico del figlio che notoriamente risiede altrove da molti anni, cosa che immediatamente i familiari comunicano ai due sbirri. Visto che da più di un anno le visite non sono state molte, il compagno si era già recato alla questura con i propri familiari e un gruppo di solidali per spiegare ai porci della Digos che non sarebbe stato più il caso di continuare a cercarlo a quell'indirizzo. Oltretutto, un paio di giorni fa il ragazzo era stato fermato in una città del nord Italia dalla polizia, che aveva in quel frangendo l'occasione di notificare all'interessato le denunce a suo carico. a ribadire che il figlio non abita più lì da anni, i due sbirri si irritano e intimano con toni arroganti e autoritari di esibire i documenti ai genitori. I genitori ovviamente si rifiutano. Ma come? I documenti a casa nostra? E il padre viene minacciato di essere tradotto in centrale, di essere denunciato per resistenza e per non aver fornito le proprie generalità. Detto fatto, tra gli sguardi dei parenti e vicini che oramai si erano radunati nella strada, arrivano altre due volanti di rinforzo e ricaricano in macchina il padre del compagno. Una volta in questura viene informalmente interrogato sulle attività del figlio e messo sotto pressione, anche tirando in ballo sue vicende personali. Conoscendo il padre, certe pratiche sbirresche, l'unica cosa che ottengono da lui è una risposta secca su questo tono: mio figlio è grande e vaccinato. Ciò nonostante, provate a torcergli anche un solo capello, che con tutte le mie forze farò il possibile per farvi tenere il culo con tutte e due le mani. Grande. Dopo più di due ore in sgradita compagnia, viene rilasciato e accolto dai familiari e da qualche altro solidale che nel frattempo si erano radunati fuori dalla questura. Queste sono sicuramente prassi comuni utilizzate dalle forze dell'ordine per intimidire chi suo malgrado abbia avuto a che fare con loro. Intimorire e fare pressione alla famiglia è un modo per creare situazioni di stress e per far sì che le persone vicine all'interessato si allontanino o entrino in conflitto con lui o lei. È chiaro che ogni compagno sa che prima o poi gli sbirri busseranno alla sua porta ed è pronto ad affrontare le conseguenze delle sue scelte, ma non è tollerabile che vengano coinvolte direttamente nella repressione altre persone che hanno fatto scelte di vita diverse solo per il fatto di essere parenti o amici. A Catania tra circa un mese ci sarà una o due giorni contro carcere e repressione ed è evidente che è un'iniziativa che mette in risalto e porta avanti la discussione su questi argomenti dà parecchio fastidio alle autorità. Ma non accade solo a Catania, non accade solo agli anarchici. Qualche giorno fa a Firenze un appartenente al Movimento per la Casa, mentre rientrava da solo verso l'occupazione, è stato circondato da una decina di sbirri borghese, minacciato, malmenato e portato in questura. Sta ad ognuno di noi impedire che queste cose gli accadano con facilità. Facciamo in modo che la solidarietà non rimanga solo una parola. Lunedì 13 ottobre alle ore 18 ci troviamo in piazza dell'Odeon di fronte al Teatro Greco per esprimere il pieno appoggio al nostro compagno e alla sua famiglia. Nel frattempo riportiamo i contatti dei servizi dello Stato, sempre quelli, perché ne facciate buon uso. E quando leggerete l'articolo sul sito di Radiazione trovate i numeri di telefono, diciamo il numero di telefono, ma piazza San Nicolella numero 8, telefono 095 73 67 533. Lo ricordo, è il numero degli sbirri, 095 73 67 533. Ora ci fanno vedere sempre, sta a vedere. Il numero di fax invece, per chi vuole mandargli un augurio, è 095 73 67 523. Lo stesso, no, non è lo stesso, invece di finire per 33 finisce per 23. Anarchici catanesi, ora vediamo quanto dura il server suo o la connessione dopo che abbiamo dato questi numeri. È già capitato in passato che appena diamo i numeri degli sbirri ci tagliano la connessione, ma sti cazzo, noi lo diamo lo stesso, ce ne frega. Ogni caduta di connessione ci rialziamo più incarogniti di prima, quindi potete fare il cazzo che vi pare, a noi non ci fate rodere il culo, al limite il culo rode a voi. E questa era per quanto riguarda la notizia che viene da Catania su questa storiaccia avvenuta ai familiari del compagno. Volevo dire una cosa ma poi mi sono perso. Facciamo una cosa, non diciamo niente, il testo parla da solo, ci ascoltiamo un brano, The Beige, il distintivo, Poison Idea. Sta canes. Young and dumb, treated just as fantasy. Fresh out of the academy. Fight your music, bust his head, make your day. Unless you play up, then you look away. Do you think this corruption will ever stop? What makes a person wanna be a cop? Ran a red light storm, his house a bust with God. Do you like to see his children cry? Pick up a hooker, take her for a little ride. genocide. Sworn to serve and protect, we get to kill it. Badge wearing fascist villain. Piss on the street, bust the guy. Do you like to see his children cry? Bastards you suck, child, face them dead. As you look back, what goes through your head? Some still call him pig. Some still call him pig. Truth and justice fantasy. Fresh out of the academy. Five times losing bust his head, face your day. Unless you pay off then you look away. He burned a flag from the house and bust a guy. Do you like to see his children cry? Off a road you take it for a little ride. Kiss the dove on the side. The bastards you suck. A child lays there dead. As you look back, who goes through your head? Cioè, vabbè, siamo mi ricollegavo alla canzone, continuavo la canzone in italiano. Allora passiamo ancora ad altra controinformazione. Avevamo iniziato dicendo si resterà in Messico, invece si andrà in Messico dopo però, dopo, perché ci leggiamo l'ultima notizia che arriva da un'altra zona del mondo e poi dopo ci fermeremo in Messico con l'intervista a Carlos Lopez e Chivo. Allora, ora non andiamo in Messico, ma rimaniamo da quelle parti, si va in Cile perché ci sono degli aggiornamenti sui compagni, sugli arresti di Natalie e Juan. La difesa dei compagni Juan Flores e Natalie Casanova si è appellata alla detenzione preventiva imposta chiedendo agli arresti domiciliari totali. Infine, il 2 ottobre 2014, la Corte d'Appello di San Michele ha rigettato la richiesta di modifica della custodia. Ci sono state, per quanto riguarda la questione dei trasferimenti, lo stesso giorno Juan ha avuto un'udienza in cui ha chiesto il trasferimento dal carcere Impresa Santiago Unos al carcere di massima sicurezza, il CAS, non è, no, è il CAS, CAS, carcere di alta sicurezza, un carcere del CAS. La richiesta della difesa si basa sulle minacce contro Juan da parte dei prigionieri organizzate dai carcerieri. La procura terrorista Sur di Francisco Bravo ha continuato il suo progetto di complicare e rendere il più difficile possibile la prigionia del compagno ed ha chiesto il rifiuto del trasferimento. Infine, il giudice René Cerda ha rifiutato la richiesta di Juan, avvertendo la gendarmeria di aver più controllo contro l'accusato. Solidarietà con Natalia e Juan, non abbandoniamo i nostri compagni in carcere. Lo ricordo per chi non lo sapesse, che Natalia e Juan sono i due compagni arrestati insieme a Guillermo. Uno dei tre non è un compagno, lo dico, molto probabilmente uno dei tre non è un compagno, ora c'è da capire chi è, cioè per, almeno per, non si è definito tale, però vabbè, i compagni sono accusati per gli attacchi alle metropolitane in Cile, i fatti ben noti purtroppo di questi attacchi, in cui in uno ci sono stati 14 feriti da parte di civili, che è stato criticato a voce, non sul testo, anche da parte mia, però ovviamente non del tenore dei testi scritti da, che arrivano da quelle parti, oppure qualcuno dal nord Europa. Allora, ovviamente il testo, cioè quello che dicevo io, lo ripeto per chi non c'era, chi non ascoltava quel giorno, dicevo, cioè non è che abbiamo capito il cazzo per la bomba atomica, è vero, cioè si stanno susseguendo gli attacchi, sta avvenendo la voglia di agire, sta nascendo un qualcosa di diverso rispetto a quello che c'era prima, però non bisogna farsi prendere tanto la mano e almeno ragionare. Questo non è rivolto assolutamente a Natalie, Juan e Guillermo, che tra l'altro hanno rigettato le accuse degli attacchi alle metropolitane fatta dalla procura di Santiago, ma è rivolto a chi l'attacco l'ha fatto. Basta, chiudiamolo qui, senza, perché a me criticare tanto le azioni non mi piace, però questa era un pochino più particolare, ci sono finiti sotto dei civili e quindi mi ero preso la licenza di esprimere anche io il mio pensiero senza scriverlo sul sito per non creare casini, l'ho detto solo a voce. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Analogic Guerrilla, il brano è The Flying Oyster, e poi dopo si torna qui, si va in Messico finalmente, si va da Carlos López Chivo con l'intervista e tutti gli approfondimenti per il caso. We'll be right back. The Flying Oyster, Analogic Guerrilla. E ora si va in Messico, finalmente, finalmente si va in Messico, lo sto dicendo dall'inizio della diretta, invece poi mi sono più dilungato, ho dato un po' di spazio, ho aperto lo spazio anche ai compagni, alla controinformazione che ci arrivava da altri paesi, Italia compresa. Prima di leggere ricordo che la diretta di oggi è quella solo per che affronterà solo controinformazione, qualche riflessione, qualche provocazione e la musica ovviamente, per evitare che la mia voce vi urti un po' troppo. E allora ricordo invece che l'appuntamento con la lettura con Nessuno ci salva, Nazero 13 mio e Nessuno ci salva di Sergio Spiaseschi e la controinformazione tornerà lunedì 13 ottobre. Allora, dicevo, quello che ora andiamo a leggere è un'intervista fatta dai compagni di Radio Regeneration, tradotta a due mani tra me e PKT, un compagno italiano che vive in Messico. Abbiamo cercato di tradurla per farla leggere a tutti. Allora, l'intervista è stata pubblicata anche sul sito di Radio Regeneration un paio di settimane fa. Ci siamo scritti con Carlos, che ha risposto a delle nostre domande. Leggiamo le domande. Ciao compagno, come stai? Prima domanda. Sono tranquillo, senso che questa voglia dire che sono caduto nella rassegnazione che provoca l'accettare la realtà dell'incarceramento e la passività di essere un prigioniero, uno fra tanti. Fisicamente sto bene, faccio un po' di ginnastica che è fondamentale per non cadere in inutili depressioni, anzi credo che la ginnastica possa controllare anche alcune frustrazioni represse. Mi aiuta a farmi sentire meglio e inoltre mi fa rafforzare il corpo e camminare con sicurezza dentro una gabbia per animale dove uno non sa mai quello che può succedere. El pescar, un'infezione intestinale, è qualcosa di normalissimo qua dentro, dovuta al rancio, cibo collettivo, che danno a noi prigionieri, che in alcuni casi fa schifo e ha un brutto aspetto, mentre in altri non si riconosce nemmeno di cosa si tratta, né dall'odore né alla vista. E questo fa sì che io, da buon mangiatore di rancio, sappia da dove provengono tali infezioni che vengono di tanto in tanto. Allo stesso modo, l'acqua potabile da bere non è molto buona, nonostante ci siano due filtri di purificazione che sicuramente servono a filtrare l'acqua, però il risultato non è dei migliori. L'acqua del rubinetto è sporca e credo che dipende dalla zona in cui siamo. Iztapalapa, dove esce... già posso fare... dove esce così dappertutto, a parte il fatto che evidentemente per l'istituzione noi prigionieri valiamo molto poco e non si preoccupano per l'igiene delle tinozze. Così è dalla combinazione di cibo e acqua che si producono le infezioni che dicevo. Parallelamente a questo, la sinusite che mi si è sviluppata qui dentro è anch'essa molesta. E anche se grazie a compagni e compagni che mi hanno appoggiato con le medicine non sia tanto frequente, il malessere è molto forte quando si tappano le vie nasali accompagnato da terribili mal di testa. Non si può pensare nemmeno di andare in infermeria, perché hanno un'etica della condotta del tipo ti visitiamo solo se arrivi mezzo morto e con i soldi in mano, o al contrario l'attesa suole essere lunga. In un'occasione in cui andai al COC medico affinché mi dessero dell'acido folico che non aveva nulla a che fare con la sinusite, la tipa con cui parlai fu pessima. Ebbene, è così che sto, fisicamente quasi sempre bene, con qualche calo delle difese, però cercando di restare forte. Devo dire che quando ricevo visite, siano esse da parte della famiglia che dei compagni, e mi portano del cibo molto buono, mi fanno molto felice. Infatti mi piace mangiare e senza argomentare nulla, già ho smesso di essere vegetariano. Questa era la prima risposta alla prima domanda di Carlos all'intervista dei compagni di Radio Regenerazione. Ora ci ascoltiamo un brano, faremo così una domanda, una risposta, un brano musicale. Loro sono Asker Du, il brano è What's Going On, e poi dopo si ritorna qui con la seconda domanda a Carlos. Pascal Du, What's Going On? Allora, ripassiamo all'intervista fatta da Radio Regenerazione, radio dei compagni messicani. e intervista a Carlos Lopez, il cibo compagno anarchico in sciopero della fame, lo ricordiamo, è arrestato il 5 gennaio insieme ad Amelie e Fallon. Allora, seconda domanda, raccontaci come è avvenuto il cambio di procura. La questione della procura è stato un cumulo di sorprese e trattamenti nefasti che abbiamo ricevuto dall'amministrazione e dai poliziotti federali, sia io che Fallon e Amelie. Approfittando dello spazio farò un piccolo resoconto da quando ci trovavamo nella Procura Generale della Repubblica PGR fino a che ci siamo trovati sotto procura federale. Qualche ora prima che ci notificassero il cambio alla suddetta corte, quando eravamo ancora nella PGR Camarones, mi tirano fuori dalla cella per notificarmi qualcosa che ora non ricordo. Fu lì dove vidi con i miei propri occhi 3 biglietti aerei, 2 per le compagne direzione carcere di Nayarit e 1 per me a Matamoros. Ovviamente ci avrebbero trasferito a questi carceri federali allo scopo di processarci per i reati di sabotaggio, terrorismo e delinquenza organizzata per cui ci volevano accusare in quel momento. Un'ora prima di portarci all'hangar della PGR verso destini incerti, mi portano davanti al pubblico ministero e mi chiedono di parlare urgentemente con l'avvocato. Visto che non riuscii a parlare con lui, mi notificarono che sarei stato trasferito insieme alle compagne alla casa di arraigo federale di massima sicurezza per continuare le indagini. Successivamente lo notificarono anche alle compagne Amelie e Fallon, alle quali io dissi che era una buona notizia perché in quel modo saremmo rimasti assieme. Qui c'è da chiarire che nonostante la decisione fu presa da un giudice, non ci siamo mai trovati di fronte a lui, fatto che a noi non importò dato che si tratta comunque di un'autorità. Il viaggio dalla PGR al tribunale fu ridicolo. Ci misero tutti e 3 in un furgoncino con attorno 6 poliziotti federali. Tutti loro portavano armi di grosso calibro tipo AK-47 e altri che non avevano riconosciuto, e ci seguivano varie pattuglie, tutte con le sirene accese. Poco prima di arrivare al tribunale federale, il tipo che mi stava di fianco mi cominciò a ringhiare aggressivamente cose del tipo: già vi abbiamo consentito molto, vedessi la voglia che ho di spaccarti la faccia, e se non lo faccio è perché sei con le canadesi e per ora abbiamo ordine di consegnarvi senza colpirvi. Immagino che fosse così perché il governo messicano è un leccapiedi del governo canadese e non volevano avere problemi. Però se fosse stato per lui ci avrebbe fatti sparire senza che nessuno se ne accorgesse. E non è una novità, abbiamo visto che sono spariti molti studenti, circa una 30 di studenti dopo una manifestazione in Messico, ed ora sono state ritrovate, sono state ritrovate i corpi in una fossa comune, anzi due fosse comune, perché oggi leggevo i giornali di merda borghese, hanno trovato altri corpi in un'altra fossa. E questa la polizia messicana purtroppo è anche molto conosciuta per certe cose. Allora, mentirei se dicessi che non ebbi una gran paura in quel momento. Cosa ti può passare per la testa in quel frangente? Al momento di arrivare al tribunale ci fecero scendere in mezzo ad uno spiegamento di forze degno di ricevere il più terribile narcotrafficante messicano. Chiusero 2 grosse corsie della strada e, sparando in aria per quello che ho potuto sentire, i porci formarono una specie di cordone affinché noi, i super terroristi, passassimo senza che nessuno tentasse di liberarci. Ricordo che entrando nell'area della perquisizione mi misero al muro e, di spalle a tutto il personale che si trovava lì, mi chiesero di togliermi i vestiti, sempre con lo stupido ordine di dire sì signore, no signore, e cominciò l'umiliazione delle flessioni e di mostrare il culo a tutti i presenti, cosa anche frequente in Italia, anzi una norma. Fortunatamente alle compagne non è stata chiesta la stessa cosa, infatti per quanto ricordo furono perquisite in private da una poliziotta. Dopo la perquisa mi chiesero a che cartello del narcotraffico appartenevo, se a quello della famiglia Michoacana al cartello del Golfo di Sinaloa, ai Zetas o non so chi altri, per sapere dove mi avrebbero messo. Gli risposi solamente con la testa bassa e le mani indietro: è un no signore, non appartengo a nessun cartello, signore. So che era una forma stupida di rispondere, però era l'unica in quel momento. Una volta dentro mi risultò indignante l'accorgermi di vari casi di persone sotto indagine, alla quali con violenza e violando le loro presunte garanzie individuali, la polizia obbligò, mediante tortura fisica e psicologica, ad accettare accuse di cui loro stessi non sapevano nulla, tutto allo scopo di inventargli reati. Ricordo il caso di una donna che fu picchiata e a cui diedero scariche elettriche sulla vagina affinché accettasse le accuse che le facevano, per cui fu obbligata a cedere, firmando così una lunga condanna al carcere. Nonostante dentro il carcere non ci furono botte, era abbastanza frustrante passare tutto il giorno rinchiusi. Disponevamo solo di 10 minuti circa tra un pasto e l'altro e poi ci rinchiudevano di nuovo. Sempre sotto lo sguardo delle videocamere onnipresenti e del personale dell'oramai estinta AFI, Agenzia Federale Investigativa. Era difficile non essere osservati ogni momento in quello che facevamo. A mo' di aneddoto, in un'occasione riuscimmo a far entrare un abiro, cosa proibita, e così ho potuto scrivere la mia seconda lettera. Gli sbirri perquisirono in due occasioni la mia cella, ma non riuscirono a trovare la penna, cosa che mi faceva schiumare di rabbia, mentre noi tre ci mandavamo solo sguardi di scherno e complicità. Alla fine non poterono sostenere il loro teatrino del terrorismo e ci lasciarono in libertà rispetto ai reati federali, per poi spostare il nostro caso a tribunale comune. E questa era la risposta alla seconda domanda a Carlos. Un po' i brividi li mette sto racconto del trasferimento del carcere, ovviamente cose che, cioè, alcune cose tipo le flessioni avvengono anche in Italia, è una cosa usuale. I secondini appena entri in carcere ti fanno spogliare, ti fanno abbassare mutande e ti fanno piegare sulle ginocchia, evidentemente essendo loro di sequestrati, di ergastolani legalizzati, non si limitano solo a guardare film porno, ma hanno bisogno anche di vedere altro. Vabbè, conte di loro, vedere un buco del culo non è un granché. Allora, ora ci ascoltiamo un brano. Loro sono un gruppo, una band giapponese, sono ragazze, Melt Banana, Infection Defective, e poi dopo si torna qui e si passa alla terza domanda di Radio Regenerazione a Carlos Lopez, che è improntata sul reclusorio Oriente. We'll be right back. Wet Banana, Infection Defective. Allora passiamo alla terza domanda. La terza domanda posta dai compagni di Radio Regenerazione a Carlos Lopez e Civo: che trattamento hai ricevuto al reclusorio Oriente? Il reclusorio Oriente è uno dei carceri più popolari, almeno qui a Città del Messico, con più di 14.000 reclusi e, a quanto ne so, uno dei più pericolosi. Nel complesso dove mi trovo recluso siamo circa 800 persone distribuite in più di 40 celle, cioè una media di 17-20 reclusi per cella. In altri dormitori o complessi arrivano ad esserci anche più reclusi in ogni cella. Questo ci fa capire il sovraffollamento, tenendo conto che ogni cella dal mio punto di vista è disegnata solo per 6 persone. Bene, cito questa nota statistica solo per cercare di rispondere alla domanda di come trattano alcuni detenuti in carcere del genere, e la risposta è di semplice conseguenza: maltrattati. E trattandosi di un carcere, ovvero di un progetto di addomesticazione e alienazione diretto a tutti quegli individui che non accettano le norme e le regole di una società malato di robot telecomandati e manipolati, non ci si può aspettare altro che questo: maltrattamenti. Così come c'è chi è arrivato a pensare che le parole si fanno capire con le botte, c'è anche chi ancora pensa e crede che un delinquente si vada a rigenerare in un luogo dove riceve solo maltrattamenti. Essi vengono con i loro programmi di reinserimento, dove si cerca che il recluso si prepari, studi e dia valore a quello che ha lasciato fuori. Però la realtà qua dentro è molto distante da questo. Al pari dei suoi progetti di riabilitazione esiste la violenza di sistema, la droga, le dinamiche dei banditi del potere, la graduale degradazione dell'individualità e l'odio e il rancore che inconsciamente si va formando in ogni persona sequestrata. Io da qui mi sono sempre posto come un anarchico in lotta. Questa cosa sicuramente mi ha portato dei problemi, però non più che a qualsiasi altro recluso. Come ho precedentemente detto, per le istituzioni noi carcerati siamo la feccia e l'ostacolo della società e meritiamo essere trattati in quanto tali, come il peggio e nella peggior maniera. Ci sono molti detenuti che dicono che il carcere prima era peggiore, mentre ora è puro divertimento, quasi accentuando la situazione attuale. Questa posizione continua a farmi schifo, perché è precisamente questo che lo Stato cerca, che ci adeguiamo a questo piatto di miseria, quando potremmo esigere molto di più, la nostra libertà. Disgraziatamente, come in qualunque carcere società, l'individuo non agisce fino al momento in cui vede in pericolo i suoi interessi. È il caso che ora abbiamo vissuto, quando, essendo stato assassinato un agente di custodia e vedendo che durante i colloqui continuavano ad entrare cose proibite per i reclusi, droga, armi, eccetera eccetera, l'istituzione carceraria ha deciso che fossero tolte le cabañas, piccole stanzette create con le lenzuola usate nella maggior parte dei casi per avere incontri sessuali tra reclusi e le persone in visita, volendo in questo modo castigare i reclusi e determinando una grossa entrata economica per alcuni gruppi di detenuti. E allora che, vedendo in pericolo i loro interessi, questi detenuti adesso sì si incazzano con l'istituzione fino ad organizzarsi per impedirlo. È solo un esempio di ciò che intendo dire. They're all right here for the day. Everywhere the same. We'll find out. E questi erano Cress con il brano Illusion. Ora si passa all'ennesima domanda a Carlos Lopez Civo. Cosa puoi dirci della tua situazione giuridica? Sono finite le ricerche investigative ed ora siamo addirittura d'arrivo, sia per il Tribunale Comune che per quello federale. Lo spettacolo circense si è concluso nella sua prima fase. Ora, se ben ricordo, i risultati della sentenza della condanna arriveranno entro 2 mesi. Ed è qui che, secondo me, inizierà la seconda fase, che è l'appello con difesa e ricorso. Sempre secondo me il caso verrà depositato e cercheranno di tenerci ancora un po'. Odio il carcere e non voglio rimanere qui, ma questo stato del cazzo a tutti i costi deve cercare di trovare la colpevolezza dell'imputato. Vado avanti con lo slogan né colpevole né innocente e non mi interessa quello che dicono le leggi. Voglio solo che questo sequestro innaturale e ritenzione terminino quanto prima. Ricordo che io non sono l'unico processato, ma ci sono anche le compagne Amalie e Fallon, quindi ci sono punti che non toccherò per rispetto loro. Quello che posso dire apertamente è che non sarò mai in silenzio e mai farò la parte della vittima, indipendentemente da quello per cui sono accusato. Mi dichiaro nemico dello Stato e per questo mi batterò il più possibile. Ho notato una serie di incongruenze nel processo, alcuni tentativi di fare una montatura con false dichiarazioni da parte della polizia che ci accusa, in particolare quelli che accusano direttamente me, visto che in gran parte della documentazione si riferiscono solo a me. Immagino che è più comodo per loro concentrarsi su un unico imputato che su 3. In più penso che nel loro modo strategico, quello della polizia, cercheranno di trovare tutte le prove di una mia colpevolezza e successivamente faranno i collegamenti con le mie compagne giusto per fare un lavoro perfetto. C'è molto da dire, ma ancora una volta ripeto che non lo farò per rispetto delle mie compagne Amelie e Fallon, dato che non le vedo personalmente da un po' di tempo. E questa era la penultima domanda fatta a Carlos. Ora ci ascoltiamo un altro brano, intervalliamo con un altro brano prima di leggere l'ultima domanda dell'intervista. Human hands are made to hurt. It seems like human that go on and on. You're not crazy, you're seeing it right. That's reality. You never get the things you want, except in fantasy. Isn't it clear? You're not wanted here. Isn't it clear? You're not wanted here. You've got your orders. Refugee. You've got your orders. Refugee. You've got your orders. Refugee. You've got your orders. Refugee. Goodbye. Isn't it clear? You're not wanted here. Isn't it clear? You're not wanted here. You've got your orders. Refugee. You've got your orders. Refugee. You've got your orders. Refugee. You've got your orders. E allora erano The Subhumans con il brano Refuge. Ora passiamo all'ultima domanda per oggi della... no, l'ultima domanda per oggi, l'ultima domanda dell'intervista a Carlos Lopez da parte di Radio Regenerazione, che abbiamo traduzione che abbiamo fatto io insieme al compagno PKT, che forse prima avete sentito un brano, oppure comunque potete scaricarvi il CD nella pagina download. Il compagno ha messo a disposizione il CD da scaricare a chi lo vuole. Pagina download PKT Porco Nero. L'abbiamo tradotto insieme questa intervista perché ci faceva piacere che non rimanesse una cosa solo fatto solo messicano. Allora, com'è il tuo stato d'animo? Avrei pensato che rispondere a questa domanda sarebbe stata una cosa facile e semplice, ma non è così. Ovviamente devo essere molto forte e convinto in questo che ora mi tocca vivere, e soprattutto so che non sono solo in questo. Ho potuto constatare e vivere in prima persona il cameratismo e il grande sostegno di molte persone, tra cui alcuni familiari e molti compagni di idee e di lotta, che non si sono spostati di un dito in questi 8 mesi di reclusione e sono ancora lì con la loro solidarietà e il loro amore, senza chiedere nulla in cambio, incondizionatamente. Allora, mettiamo un virgolettato: cameratismo non c'ha un cazzo a che fare con i fasci, cameratismo in senso nell'essere compagni, lui dice. Non è riferita ai camerata, anche se poi comrades è il termine usato in tutto il mondo. Solo da noi il fascio si chiama camerata, solo da noi il fascio è nero, in tutto il mondo è bianco. Precisato questo, andiamo avanti con la risposta di Carlos. Ma non tutto è rose e fiori, non tutto è dolcezza, perché la privazione della libertà comporta molte cose e spesso si è pervaso dalla tristezza e dalla malinconia. L'amore diventa variabile come fuori, ma con la differenza che qui dentro c'è lo svantaggio che sei che se sei triste non puoi andare a trovare il miglior amico o un familiare, o andare al bar a bere una birra e ascoltare musica, o anche andare in un parco per passeggiare tra gli alberi per rianimarsi. Qui dentro è diverso. Se ti prende la tristezza, devi affrontarla con le tue forze, che a volte ti possono abbandonare. Afferrarti ai ricordi, o se questo non è sufficiente, puoi andare al telefono e fare qualche telefonata. Ma si vorrebbe andare oltre, vorresti vedere i tuoi, abbracciarli, stare seduto accanto a loro, a parlare guardandoli negli occhi, insieme a creare, cospirare, sognare, scherzare, baciare, tra le altre cose. Ma non è possibile, i colloqui mi fanno molto bene e sempre mi emozionano e mi fanno sentire vivo in un campo di morte. Anche la lettura mi dà la vita, le lettere, i volantini e le manifestazioni di solidarietà dei compagni. Così di umore sto bene, anche se talvolta in qualche occasione momentanea mi sento male. Ma per ora è così, questa è la vita. È molto difficile riconoscere la tristezza perché di solito si cerca di dimostrare a se stessi che si è molto forti e si può andare avanti facilmente, ma non è così, perché come esseri umani abbiamo sentimenti e emozioni ed è necessario riconoscerle e vivere. Allora, io la rileggo questa frase. È molto difficile riconoscere la tristezza perché di solito si cerca di dimostrare a se stessi che si è molto forti e si può andare avanti facilmente, ma non è così, perché come esseri umani abbiamo sentimenti ed emozioni ed è necessario riconoscerle e vivere. Potrei leggerla ancora un'altra volta, ancora un'altra volta, ancora, ancora un'altra volta, ancora. Un bacio a Carlos, va, che ha il coraggio di dirle certe cose, perché molto spesso molti compagni anarchici sono fieri e duri e cercano di nascondere qualsiasi tipo di emozione, cercano di far capire che per loro le emozioni non esistono. E non far esistere le emozioni, far finta di rinchiudere le emozioni e non esternarle è una grande cappellata, una grande cazzata, diciamo onestamente. Uno deve vivere le proprie emozioni così per come gli arrivano. Ed è sbagliatissimo, è il modo meno libertario quello di intrappolare le proprie emozioni e non esternarle, non farle mostrare ad altri. Ci sono alcuni momenti, alcune emozioni che uno vuole viversi da solo, ma vanno vissute, vanno sempre vissute. L'emozione non è un'autorità, l'emozione è una cosa bella, brutta o cattiva. L'emozione può essere d'amore o di odio. Allora, questo era per finire l'intervista di Carlos Chivo, fatto da Carlos Lopez e Chivo, fatta dai compagni di Radio Recreación e tradotta da me, da sottoscritto e da compagno PKT Porco Nero. Ora l'appuntamento con Radiazione, lo ricordo per chi non è abituato, subito dopo, ora siamo alla fine, siamo ai saluti, subito dopo rimanderò su già il podcast con tutta la diretta di oggi, così chi se l'è persa dall'inizio può riascoltarla, o altrimenti il podcast lo trova già da domani, dopodomani, sul sito di Radiazione. Comunque fatto sta che Radiazione per ora non spegne, Radiazione va avanti, ci ascoltiamo un brano musicale e poi dopo riparte il podcast con tutta la diretta di oggi, un'altra ora e mezza per chi vuole ascoltare questa voce del cazzo. Allora, ricordo l'appuntamento per lunedì invece con la controinformazione, la lettura di Da013, il racconto che sto scrivendo io, che uscirà insieme al CD con le musiche adattate per il racconto e andrà benefit per i compagni detenuti, e la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki, che è il primo libro quando riguarda le letture di quest'anno. Ricordo gli indirizzi utili, radiazione@distici.org, per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail, materiale da far apparire sul sito di controinformazione, o comunque diffondere materiale da diffondere anche gratuitamente come CD, libri, opuscoli, li può mandare a Radiazione, alla mail, sempre la solita mail, radiazione@distici.org, e noi li ficchiamo dei download. Ricordo, Radiazione è in due lingue, italiana e lingua croata. perché in lingua croata? Qualcuno mi ha chiesto perché in lingua croata, perché effettivamente c'è una compagna che se n'è voluta occupare. Se ci sarà qualche spagnolo, ci sarà qualche francese, se ci sarà qualche tedesco, cioè ci sarà qualcuno di qualche altra nazione, africano o cinese, penso che sono anarchici, ma devi sentire se ci sono le affinità, potremmo fare anche radiazione in un'ulteriore lingua. Allora, per oggi è tutto, l'appuntamento è per lunedì 13 con la diretta d'azione. Ora un brano musicale e poi dopo tutto il podcast della diretta di oggi. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni.